I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, dalla compagnia dei conti della Belva, e siamo Oscar Giannino e i suoi compari Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Renato Cifarelli, che ha questa voce da chi ha appena preso praticamente una bella multa parcheggiando l'automobile. No, non è così, e non auguriamocelo. Comunque un saluto a chi festeggia oggi Sant'Antonio Abato. È un 17, ma è un sabato, quindi non è venerdì, e noi speriamo di tenervi in questo inizio di sabato belli, allegri e soprattutto belli frizzosamente un po' incazzati, come se avete iniziato a seguirci questa settimana. È un po' la nostra tradizione, prima del ricapitolare i temi della giornata, per decidervi di chiamare all'800 24 00 24 per darci la vostra opinione, e al sms al 349 238 6666. Ricapitoliamo lo spirito di questa trasmissione, che è fermo a quello di sabato scorso, dopo la strage a Charlie Hebdo, e questo: tes ennemis expirant, vois ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Eccoci qua, perché a dire la verità io inizio subito a fare il giro tra poco con i miei compari di per cosa sono arrabbiati nella settimana. Io ve lo dico subito, mi ha fatto parecchio arrabbiare la frase del Papa, perché non credo che a un Papa spetti dire che se gli offendono la mamma lui risponde con un pugno, cioè come dire che chi parla male della religione cattolica merita un pugno. Io preferisco il gran rabbino di Francia, che ha detto che gli ebrei certo hanno il senso della blasfemia, ma il loro senso della blasfemia significa che quando vedono, leggono, scolgono una vignetta blasfema, si volgono dall'altra parte e mai possono pensare di imporre a qualcuno di non scriverla, di non dirla, di non raffigurarla. Mi dispiace, il gran rabbino di Francia batte Papa Francesco, molti punti a zero, ma questa è la mia opinione. I punti della giornata nella nostra trasmissione sono questi: vi chiediamo chi volete al Quirinale, quindi chiamate, fateci nomi, diteci chi volete, noi vi diremo la nostra su chi vogliamo. Noi vogliamo un garante per le tasse per i poveri contribuenti, però voi diteci qual è il vostro candidato ideale. Girano tanti nomi, speriamo che i vostri siano un po' meglio di quelli che vediamo. Dopodiché ci occupiamo per un altro bel po' dell'Europa che balla. Avete visto, è cambiato il cambio, renda l'iterazione del franco svizzero sull'euro, è saltato il peg, ci sono adesso persone in fila fuori le banche svizzere, ma anche fuori le banche greche. Si vota in Grecia tra pochi giorni, questa settimana arriva la BCE, insomma, con i suoi acquisti non ortodossi sul mercato. Vediamo che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa vi dovete aspettare voi. Avremo due ospiti del PD, Stefano Fassina e Giampaolo Galli, che tra l'altro la pensano un po' diversamente da loro. Poi un altro argomento: arriva l'anagrafe digitale in questo 2015. Io vi racconterò la mia esperienza con l'anagrafe di Milano, ma speriamo che nel 2015 invece ce n'è una unificata nazionale. Ci credete voi? Avremo con noi la direttrice dell'agenda digitale italiana, vedremo davvero se crederci o non crederci, e poi ci porremo un problema: ma com'è che questo governo dà sistemi di, diciamo, fiscali per quello che riguarda la compliance, cioè il rispetto delle norme, per quello che riguarda la promessa di una stabilità di invarianza fiscale solo a chi ha molti soldi, troppi soldi? Noi siamo per il mercato, ma così gli altri noi li mettiamo? Vi parleremo anche di questo, ma intanto il giro tra i compari. Che cosa vi ha fatto arrabbiare questa settimana, Carlo Alberto? Mi ha fatto più che arrabbiare, diciamo, sconfortare il fatto che l'Italia violi i trattati internazionali che sottoscrive rispetto alla lotta al terrorismo, che impongono a questo paese di non pagare riscatti ai terroristi legati al fanatismo e all'islamismo radicale, però poi, come dire, lo nega o quantomeno non si prende la responsabilità. Io sono assolutamente felice che abbiamo riportato a casa tramite riscatto due cittadine italiane. È irrilevante la ragione per cui sono andate là, quindi qualsiasi argomentazione personale per me non ha senso. Invece ha senso un'argomentazione civile, istituzionale, e cioè l'Italia ha preso un impegno solenne contro tutte le nazioni, unanimi, che diceva rigettiamo inequivocabilmente il pagamento del riscatto ai terroristi in linea con la risoluzione 1904 dell'ONU del 2009, sottoscritta da tutte le nazioni. Purtroppo questo non è avvenuto. Scusate, io ci rimango male. Ah. Mario. Ma io allora, a parte diciamo questo precetto evangelico 2.0, porgi l'altra guancia finché io possa colpirti meglio, diciamo, esatto, che esatto, quello che mi ha colpito di più è stata questa interessante, diciamo, interpretazione sociologica del nostro premier. Gli italiani sono terrorizzati e quindi si arricchiscono. Ne parleremo adesso più tardi, però diciamo, quando uno ha paura, alcuni cantano, altri fischiettano, gli italiani abbiamo scoperto che quando hanno paura si arricchiscono. Beh, per cui dovremmo essere una specie di Singapore sul pianeta, sì, diciamo, ma secondo quell'algebra renziana un po' particolare, quell'arricchimento misurato con le metriche, spieghiamo bene com'è questa storia degli italiani che si sono arricchiti. Ve ne avete resi conto voi di essere arricchiti per paura? Telefonateci anche su questo, dateci la vostra opinione. Ah, a me ha fatto ridere più che arrabbiare, in parte arrabbiare, la questione degli hedge fund che si sono lamentati perché non sono stati avvisati che il franco svizzero sarebbe stato svalutato. Volevano una telefonatina prima dalla Banca Centrale Svizzera. Ma siccome di solito a me, io sai che non è che abbia studiato molto, ma mi hanno spiegato che il rischio è quello che ti dà i rendimenti. Se tu fai un hedge fund, tendenzialmente sei un rischio. Essere il tuo mestiere, no? Cioè, dovrebbe essere il tuo mestiere. Allora, questo poi vedremo di qualche riflessione c'era su quello che è capitato in Svizzera, perché impatta esattamente una delle cose fondamentali del banchiere centrale. Il banchiere centrale deve avere nell'autorevolezza di quello che decide, nella prevedibilità ex ante, uno dei suoi punti di forza. Questa volta, intendiamoci, non era proprio una sorpresa, ma l'hanno fatto in un modo che obiettivamente è come darsi la zappa sui piedi in termini di credibilità e autorevolezza per la Banca Centrale Svizzera. E questo, sì, siamo buoni a fare il cioccolato e non si discute, questo mestiere del banchiere centrale svizzero gli è venuto un po' meno bene. Dopodiché vi aggiungo due altre cose dell'ipocrisia italiana che mi hanno fatto molto arrabbiare. Io non butto giù questa storia del pensionato del comune di Perugia, l'avvocato pensionato del comune di Perugia che invita, voglio dire, è ancora vivo, invita da dipendente e professionista del comune di Perugia, è riuscito a farsi pagare sia come dipendente che come professionista fuori il comune di Perugia. Dopodiché è riuscito, con giudici del TAR che gli hanno dato ragione, a farsi dare la pensione sia come dipendente che come professionista, a mettere nella base di calcolo della sua pensione pubblica gli estremi delle cause vinte e degli onorari dei concorrenti che sbaragliava, e si becca un vitalizio, cioè una pensione a vita di 24.000 euro al mese, di questo unico in Italia, tre volte Obama. Allora, il signor Mario Cartasegna, in un paese civile, innanzitutto, tutti i giudici che hanno messo il timbro sulla sua richiesta, a casa mia dovrebbero andare tutti a casa! Capite? Perché è intollerabile questa maniera di fare. Furbo lui, che oggi dichiara al Corriere della Sera: ma volete mica che io rinunci? Nel mio paese ideale questa roba A non può avvenire, B se avviene viene cassata subito, perché è uno sputo in faccia intollerabile alla vita di milioni di italiani, a chi lavora nel settore pubblico e privato, a chi non ha un lavoro e si sogna col binocolo trattamenti simili. E anche tantissimi giovani professionisti che stentano negli studi professionali, dove fanno fotocopie, non vengono pagati e pagano loro per stare lì, e vedono che c'è qualcuno che in Italia riesce a fare il massimo del pubblico e del privato con una pensione a vita. Questo è una vergogna. È una vergogna! Eccoci qui tornati in studio alle 10:17 in questo sabato 17 di gennaio. Quante 17 che ci sono? Allora, andiamo subito all'inizio della nostra scaletta. Vi abbiamo detto, telefonate, dateci la vostra opinione, chi volete, al Quirinale, perché adesso fino a fine mese è praticamente il tema centrale su cui i leader politici, le formazioni politiche si misurano. Il povero Berlusca è lì, che è stato costretto a dire che oramai lo vuole del PD, possibilmente anche se è un comunista che è andato in Afghanistan, ma tutto sommato, anche se sta nel comitato centrale del Partito Comunista della Corea del Nord, il problema è Berlusconi c'ha, insomma, altre priorità, più che altro. Il PD è spaccato, 5 Stelle potrebbero giocare un ruolo, ma stanno lì in panchina anche loro, non sanno se si devono cacciare l'un con l'altro o se Casaleggio dirà che devono votare la Madonna di Lourdes, perché insomma, è una situazione un po' complicata. Allora, voi diteci come la pensate, ma noi ci permettiamo di caldeggiare una tesi, vero Carlo Alberto? Visto che c'è questo presidente che ha 1000 poteri di garanzia, ma ce n'è uno importantissimo. Siccome il modello di legislazione in Italia ormai passa esclusivamente tramite decreti convertiti dal Parlamento, e il decreto lo deve firmare il Presidente della Repubblica, che è garante della urgenza, della necessità, quando queste condizioni quasi mai in realtà ci sono, perché qualcuno mi deve spiegare perché i decreti fiscali sono urgenti e invece non possono essere, anzi non debbano essere pianificati con il giusto tempo. Bene, quello che chiedo, nient'altro che rispetto alla Costituzione. Un presidente che abbia gli attributi, se è femmina meglio, che abbia gli attributi politici, istituzionali, caratteriali per dire di no, che i decreti che fanno imposizioni fiscali retroattive, che violano lo statuto del contribuente, che violano quella Costituzione economica non scritta e che mi piacerebbe tanto scrivere una volta, che tutela questo paese. Noi abbiamo bisogno di uno Stato che rispetti i cittadini e quindi di un presidente che si faccia garante non delle istituzioni ma dei sovrani, che siamo noi. E siamo noi. Allora, per chi volesse approfondire, andate sulla pagina di Radio 24, Radio 24, andate programmi su programmi, Conti della Belva, aprite, c'è una scheda con tutti i temi di cui parliamo oggi, con i documenti di approfondimento che vi proponiamo, e scoprirete che, a proposito di irretroattività fiscale stabilita nello statuto del contribuente ma perennemente violata da tutti i governi, durissimamente violata dal governo Renzi, che ha dato una stangata fiscale al risparmio previdenziale, una stangata retroattiva su come si tassano, su come si tassa il terzo settore nel nostro paese. Quindi, l'IRAP. L'IRAP, non c'è dubbio, rimangiandosi la diminuzione di aliquota del 2014 per costruire una base un po' meno scivolosa per dare poi l'abbattimento della componente lavoro nell'IRAP nel 2015. Quindi anche questo è un governo che si rimangia gli impegni e dà stangate retroattive. Troverete l'elenco dei paesi in cui l'irretroattività è sancita e sanzionata come anticostituzionale. In Germania la Corte di Karlsruhe ha respinto più volte leggi fiscali tedesche che proponevano tasse retroattive, le ha bollate come incostituzionali. La Costituzione del Brasile, pensate, dal 1828 vieta le tasse retroattive. Noi siamo infinitamente peggio di un mucchio di altri paesi, perché lo Stato ladro, quando deve riempire la cassa, se ne fotte dell'impegno di non essere retroattivo. Allora, detto questo, e avendovi spiegato che noi abbiamo questa speranza per un capo dello Stato, tra i tanti poteri di garanzia, lo abbia verso il sovrano vero, verso noi contribuenti, chiediamo a Claudio Siciliotti, che è ex presidente dell'Ordine dei Commercialisti nel nostro paese, dei dottori contabili, se la nostra è una speranza infondata dal punto di vista giuridico e soprattutto qual è la speranza sua, qual è la speranza dei commercialisti italiani che oramai negli anni sono diventati dei veri agenti pubblici, dipendenti pubblici, nel senso che sono loro che devono raccogliere i soldi dello Stato, però sono loro che sono responsabili penalmente dei soldi che lo Stato chiede loro di raccogliere, perché a pagarli non è lo Stato ma siamo noi clienti. Buongiorno e buon sabato mattina, Claudio Siciliotti. Buongiorno a lei, Giannino, e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. L'ho ascoltata con attenzione, devo dire che come sempre sono largamente d'accordo con quello che è stato detto. Voglio ricordare una cosa fondamentale: noi dottori commercialisti italiani al nostro congresso di Napoli del 2010, quindi oltre 4 anni fa, abbiamo proposto una norma di legge che elevava lo statuto del contribuente a norma di rango costituzionale e quindi inviolabile, se non con le maggioranze previste, alle violazioni della Costituzione. Parteciparono a quel congresso i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, tutti si sono dichiarati completamente d'accordo sulla proposta, che era assolutamente giusta e era, per così dire, quella che loro condividevano da lungo tempo, ma nonostante queste parole nulla si è fatto. E quindi c'è la possibilità di fare, c'è la possibilità di rendere l'irretroattività una cosa impossibile, come dovrebbe essere in un paese civile, ma non è stato fatto. Si deve concludere che non manca la possibilità, ma manca la volontà. Un'altra considerazione che mi piace fare: noi abbiamo fatto un'altra proposta, io assieme ad Enrico Zanetti, oggi attuale sottosegretario all'economia, ci abbiamo pure scritto un libro sopra, proponendo un'agenzia delle uscite. Come esiste un'agenzia delle entrate che sovraintende la possibilità che le entrate siano effettivamente conseguite, ed è una cosa importante, e probabilmente gli importanti risultati che sono stati raggiunti nella lotta all'evasione e nel recupero dell'evasione sono stati possibili anche perché c'è un'agenzia delle entrate efficiente, con poteri forti, con poteri di imporre riscossione provvisoria, come tutti sappiamo, anche in pendenza di giudizio. Ebbene, perché non istituire parallelamente un'agenzia delle uscite che, ove dovesse riscontrare che ci sono delle dispersioni ingiustificate o anche penalmente rilevanti di spesa pubblica, non provveda subito a tagliare quei costi e quegli stipendi dei soggetti che si sarebbero resi responsabili degli illeciti. È chiaro che queste cose renderebbero più facile il rapporto del cittadino con lo Stato, perché comprenderebbe di essere una volta tanto appunto cittadino e non sempre suddito. Sono cose importanti. Non avere fatto questa cosa che tutti, parlo dello statuto del contribuente, che tutti avevano detto era possibile fare e c'era la volontà di fare, ma non si è fatta. Non si è fatta, non avere preso in considerazione l'ALTA, l'Agenzia delle Uscite, lo ribadisco, per la quale in Senato era stato depositato pure un disegno di legge dal gruppo misto, senatore Nicola Rossi, me lo ricordo, perché aveva recepito questa segnalazione. Allora è la dimostrazione che dal Paese arrivano cose importanti, anche segnalazioni di miglioramento. Però la politica non ci sta. La politica non ci sta. Ora è chiaro che il nuovo presidente, io non lo so se debba essere stato in Afghanistan o debba essere donna, ma certo ci vuole una figura autorevole, garante di questo rapporto con i cittadini e non subalterno alla politica. Oggi il fisco è un nodo centrale in questo ruolo di garanzia. Noi dobbiamo renderci conto, noi abbiamo tre nodi, la spesa, le tasse e il debito. Tutti ci chiedono di ridurre tutte e tre, e le tasse ce lo chiedono i cittadini, il debito ce lo chiede l'Europa, la spesa ce lo chiede la logica, ma la logica non vota, per cui l'unica cosa che si dovrebbe fare per prima, perché le tasse sono alte, perché ci sono più uscite e bisogna rincorrere le uscite, il debito è tale perché ci sono sempre disavanzi. Allora, il problema secondo me è anche che però tra i tanti poteri di garanzia i Presidenti della Repubblica hanno a lungo, diciamo, tessuto dei rapporti d'amore anche fuori talvolta dalla stretta letteralità dei poteri loro attribuiti dalla Costituzione, esercitando potere di garanzia, guardando, vuol dire, l'opinione pubblica per essere popolari, da numerosi Presidenti della Repubblica hanno fatto così, però una cosa è sicura, non lo hanno mai fatto sulla materia fiscale e questo è un tema sul quale interrogarsi. Ma è grave. Perché, grave soprattutto perché questo Presidente della Repubblica rischia di sceglierlo il capo del governo e non è possibile, tutto questo non è possibile. Ricordo che la Costituzione dice il contrario, dice che è il Presidente della Repubblica che sceglie il capo del governo e non è il contrario, perché sennò è come il capo dei ladri che elegge il capo della polizia. Non può funzionare attenzione, il capo dei ladri hai detto che... No, ma è un'ipotesi, è uno scenario. No, credevo di aver capito che... è una metafora come il pugno del Papa, qui a furia di metafore oramai. No, fammi dire, è importante invece, perché rischiamo di dare al segretario del partito di maggioranza relativa, nonché presidente del Consiglio, un potere che costituzionalmente dovrebbe essere invertito, ecco. E cioè il Presidente della Repubblica è garante delle istituzioni, della Repubblica e in particolare dei diritti dei cittadini. Non può sceglierlo il controllato, il primo controllato, il Presidente della Repubblica è il Presidente del Consiglio dei Ministri. Non può scegliersi il controllore. Non a caso c'è la maggioranza qualificata per eleggerlo. Non a caso il Presidente del Consiglio dice che in realtà si inizia a votare dalla quarta volta, dove è più bassa. Cioè hanno abolito le prime tre perché dice tanto non ci metteremo mai d'accordo. Magari che Berlusconi sia dietro la porta che raspa come un cagnolino per dire io sono qui per mettermi d'accordo, voto tutti, non ci avete un maresciallo sovietico della seconda guerra mondiale, io lo voto, cioè, no, ma non è l'ordine di Lenin, fare una questione di nomi, capisci? Dobbiamo difendere il principio della separazione dei poteri, no? È una delle pochissime fondamentali leggi che è stata costruita a livello costituzionale. Il Presidente della Repubblica è garante terzo esterno. Allora, a questo proposito qualche nostro ascoltatore manda degli sms, per esempio dice Cassese per presidente come garante potrebbe andarvi bene. Un altro ci dice, beh, allora perché non Fabrizio Barca, che al Ministero della Coesione ha fatto un gran lavoro e certe cose le bloccherebbe, perché è anche uno critico, anche se non molto deciso, ma critico all'interno del suo partito. Poi ci sono tra i nostri ascoltatori chi ha dei punti di vista, diciamo, rispettabilissimi, legittimissimi, ma belli schierati politicamente, perché c'è chi dice pro Di Maio tutta la vita, eccetera eccetera, e ci sono dei fan fino a questo momento del Ministro della Difesa Pinotti. Ecco, questo è la prima fotografia dei nostri sostenitori di Monti della Belva. Cassese, ma Cassese potrebbe essere la soluzione, Mario, tu che dici? Un tecnico così, un giurista tecnico? Sì, potrebbe, però io non vedo Cassese o anche una figura simile a quella di Cassese sufficientemente assertivo sul piano istituzionale per dire no, questo non si fa, quello non si fa, no, perché il problema è sempre quello. Cerchiamo il taglianastri, quando smette di essere taglianastri gridiamo all'impeachment perché deborda. E quindi penso che il teatrino si ripeterà uguale a se stesso anche questa volta, perché insomma, fateci caso, anche Renzi dice ci vuole l'arbitro. Quando i politici, i capi partito, dicono che bisogna scegliere un capo dello Stato arbitro, sanno perfettamente che in realtà il nostro capo dello Stato, con le funzioni che ha, è un giocatore, non è solo arbitro, perché quando si tratta di formare i governi, la lista dei governi, certo, come diceva, è un giocatore. Allora, quando il politico ti dice voglio l'arbitro, è perché, come dice Mario, vuole il taglianastri. Sì, lo ricordo, anche un certo Moggi diceva la stessa cosa, voglio nominare l'arbitro. Ah, ma oggi siamo pesanti con me. No, ma io sto difendendo la Costituzione repubblicana, Oscar. Io figura, a me è pure simpatico Matteo Renzi. Forza, Matteo. Sai che gli hai dato del Moggi, del principe dei ladri. No, non a lui, è un principio. Era una metafora. Esatto, era una metafora. Sì, devi più sottile. Sto dicendo che il governo non può scegliere il presidente. Non so se mi spiego. Il governo non può scegliere il presidente, specialmente non può farlo il presidente del Consiglio. Che da esso è nominato. È un prevenuto gufo. Un gufo prevenuto. Io gli faccio il costituzionalista repubblicano. No, adesso voglio sapere il capo dello Stato ideale per Renato Cifaretti. Il capo ideale per me, guarda, io è una settimana che ci penso, sai che non mi viene in mente un nome. Ah, questo è bello. Probabilmente la regina Elisabetta. No, la regina Elisabetta perché costa meno. Ragazzi, nascosto. La monarchia britannica costa al contribuente del Regno Unito 37,5 milioni di sterline, cioè 46 milioni di euro, meno di 4 volte di quello che ci costa il Quirinale. Allora, sì, ciò nonostante non scambierei mai la mia repubblica sgangherata con nessuna monarchia. Mi dispiace. Ma non sto dicendo questo. Se tifi Repubblica, devi odiare la Repubblica dilapidatrice che genera mancanza di consenso e sfiducia, capisci? Preferisco una regina saggia a un presidente dilapidatore. E invece sì, perché la regina saggia fa un ma non sono monarchico. Ma non mi farei stare zitto dicendo viva il Quirinale che costa 4 volte e mezzo Buckingham Palace. Ma certo, mai che no. E poi mai. Ma ecco, certo, allora, no, signori, non accontentiamoci dei taglietti del signor Napolitano, buttati come polvere negli occhi dei sudditi italiani l'ultimo giorno per il successore. Ma su, dai, ma siamo seri, ma perché deve costare 4 volte e mezzo di più? L'Eliseo, eppure di francesi di pompa ne hanno pubblica, costa meno della metà l'Eliseo. Allora, francamente, su, ogni volta abbiamo la scusa, perché deve costare tanto così? Perché è in Palazzo dei Papi e chi se ne frega, scusate, ma non è possibile ogni volta avere la scusa. Facciamo così, aboliamo la sede fisica, no? Portiamola invece che sul colle più alto, che ne so, giù nel quartiere Prati, nell'isola Tiberina, anche simbolicamente. In una casa dell'Aller lo mettiamo. Sì, una casa dell'Aller. Così magari le mettono a posto. Ci dicono che siamo irresponsabili. A Tor della Monaca, qualche porta. No, non siete d'accordo. Come non sei d'accordo? Il problema è che ogni volta si dice, e la stampa in ginocchio a fare tutti, no, ma riconosciamo che il capo dello Stato, ma riconosciamo cosa? Che costa 4 volte e mezzo in più. Sì. E piantiamola di stare sempre tutti in ginocchio, giornalisti, ogni volta che parla un capo dello Stato e un capo del governo, perché questa è l'ABC. Se esistiamo e tentiamo di guadagnarci bene i nostri soldi, è anche per fare trasmissioni un po' più meno seriamente, inzuccheratamente ingessate e in ginocchio di fronte ai Napolitano e ai Renzi. È chiaro, questa è la mia opinione. Eccoci qua, tornati in diretta a 10:34 primi 12 secondi con i compari dei Conti della Belva, Carlo Alberto, Mario, Renato e Oscar. Stiamo parlando e continuiamo a parlare ancora per un po', chiedendo la vostra opinione su quale inquilino volete al Quirinale. Vi abbiamo detto la nostra, un inquilino garante per il contribuente, ma voi continuate a darci le vostre opinioni. Per esempio, c'è chi propone Durvalder per presidente, il più di garanzia di così non si può, ci dice un ascoltatore da Belluno. Invece una ascoltatrice da Roma, che ha 2 attività commerciali in pieno centro, dice: se arriva la Finocchiaro e D'Alema, giuro, vado via dall'Italia e anche mando via i miei 2 figli liceali, basta burocrati e sindacalisti. C'è chi ovviamente coglie un po' lo spirito ridanciano di questa mattina e propone Antonio Razzi, Presidente della Repubblica. C'è chi propone Rodotà, ricordate, fu una dei candidati di possibile convergenza tra 5 Stelle e PD, che poi saltò nel Gran Rodeo caotico messo su da Bersani, tra i tanti errori di Bersani all'inizio della legislatura. Non credo che abbia tante chance per tornare in pista. Parlavamo tra noi qui, chi ha più chance attualmente è un uomo coerente, limpido, di linee e scelte politiche assolutamente ferreamente coerenti nella vita, Walter Veltroni, che oggi è in testa alla lista di coloro che è in buona posizione, insieme a Mattarella, che ha un altro profilo, un profilo molto politico, di cattolico del PD, quindi potrebbe essere un ponte tra il PD e gli altri. Bah, vedremo, voi continuate a dirci come la pensate. Sentiamo intanto anche al telefono qualcuno di voi che ci dia la vostra opinione. Cominciamo con Margherita da Milano. Prego Margherita. Buona giornata a tutti. Allora, Margherita è una Margherita infuriata naturalmente in questi giorni, e comincio subito col dire, così le cose sono chiare immediatamente, della elezione del Presidente della Repubblica non me ne importa niente. Fintanto che la figura del Presidente sarà quella che ha dimostrato di essere in tutti questi anni, non me ne importa niente. Li vedo tutti, i papabili attuali, come qualcuno che ha tra i denti un brandello della tunica della nostra povera Italia e che tira da tutti le parti. Facciano quello che vogliono, tanto per adesso così com'è le cose non possono che essere come sono andate fino ad oggi. A questo ci ha portato la politica. Scelgo di non scegliere, io che ho fatto credo della mia vita quello di scegliere, di partecipare, adesso scelgo di non scegliere. Punto uno. Punto due, sono anche dolorosamente, e lo sottolineo con forza, infuriata con quelle che sono state le reazioni del Santo Padre, Papa Bergoglio, infuriata sugli atteggiamenti che ha assunto in quest'ultima occasione, tanto per non citarne una, non era sola peraltro, infuriata perché per me il Papa è la pietra angolare, io sono una credente, sono cattolica, sono osservante, non posso quindi non reagire a quello che è successo in questi giorni. Mi domando quando quest'uomo che viene dall'altro mondo si deciderà ad essere anche un Papa, quello che per me è il Papa, quello che per me è il pontefice, come la parola stessa dice. Grazie Margherita, grazie Margherita, perché è chiaro che insomma la frase sul pugno non ti è piaciuta molto. Devo dire la verità, siamo in minoranza però a pensare così, perché ieri in una trasmissione abbiamo fatto ad hoc, siamo stati travolti da chi diceva parla come un parroco, viva il parroco. Io facevo sempre notare che viva il parroco è l'espressione in cui nel calcio si saluta un colpo che è esattamente fuori da ogni canone, capite? Cioè quando si butta la palla in tribuna si grida viva il parroco, cioè non è esattamente una cosa, con tutto rispetto per i parroci che sono nel nostro ascolto ovviamente e che saranno minoritari perché sono dei parroci taceri. Quindi. Allora, Roberto da Bergamo, qual è il tuo candidato ideale, Roberto? Il mio candidato ideale, premesso che quello che ha detto Margherita per quanto riguarda la politica è la stessa mia posizione, Il mio candidato ideale dovrebbe essere di rottura, onesto, che non ha più scheletri nell'armadio e quindi, visto che ormai penso che siano quasi tutti usciti, propongo Oscar Giannino. No, vabbè, non si può fare. Questa vuole essere una trasmissione seria. Ecco. Poi, figurati. Io non faccio la trasmissione. Roberto, dai, lo so, c'è qualcuno giustamente che serve per abbassare la credibilità del nostro scelto. Assolutamente no. Io ho già commesso la mia buona dose di errori, quindi politiche zero, né dirette, e non sono se non un simbolo di come dagli errori, forse strisciando che non scusa si può chiedere scusa. Punto, Roberto, punto. Giorgio da Pisa. Giorgio, prego, dici un nome. Buongiorno, Fabiola Gianotti, scienziato che ci porta gli onori del mondo e che ha un valore, che sicuramente saprebbe gestire delle cose, anche perché studierebbe approfonditamente anche nei meccanismi. Però Giorgio, ti posso fare un'osservazione? Perché per esempio in questa stessa lista rientra Elena Cattaneo, per esempio, stesso tipo di profilo, per di più senatrice a vita, si batte per gli OGM, però molti osservano, sì, ma sarebbe una che non sa nulla, con meriti straordinari, non si discutono i meriti delle scienziate italiane, però non saprebbe nulla in realtà dell'ABC, della politica, delle istituzioni, della Costituzione e così via, un marziano a Roma e diventerebbe inevitabilmente prigioniero del segretario generale dei partiti. Tu che dici a chi obietta così, Giorgio? È chiaro, questo rischio è inevitabile, specialmente con la rete intricatissima che è costituita da diritti. Però tu dici vale la pena di correrlo. Però verrebbe, in alternativa vedo altre tre figure, una è Sergio Romano per le relazioni, per l'esperienza, eccetera. La seconda? Il giuslavorista Tiraboschi, e un'altra sarebbe la Severino, che è qualcosa di come funziona. La Severino, è meno tecnica e più pianista di quanto sembra, se posso usare un termine, speriamo che non si offenda nessuno in ascolto, però insomma è una donna che per la sua lunga esperienza professionale, per i molti interessi che ha legittimamente rappresentato nelle aule di tribunale, insomma, è un pezzo del potere italiano, ecco. Mentre gli altri nomi meno, assai meno, il giornalista, la scienziata, no, ma insomma l'avvocato Severino altro che. Allora sentiamo, abbiamo un ospite, il professor Michele Ainis, costituzionalista, e tra quelli che piace più a noi per quello che scrive sui giornali. Buongiorno e grazie di essere con noi, professor Ainis. Ti facciamo una domanda: come mai nella sua opinione si è visto poco un Presidente della Repubblica nelle diverse interpretazioni, ma muscolare ed energico titolare di potere di garanzia nei confronti del contribuente, del fisco, che a noi sta molto a cuore, visto che tra le tante ragioni per cui si respingono, si riscrivono legge con la moral suasion o con i messaggi al Parlamento, non c'è mai il diritto del contribuente a essere rispettato, invece che preso a calci nel sedere? E poi anche qual è la sua previsione rispetto a candidati tecnici o rispetto invece a scelte più politiche questa volta? Professor Ainis, che ci dice? Due domande e poi prenderò un voto alla fine dell'esame. No, si figuri, i voti li dà lei, no, io no. Ma allora, un presidente fiscale, mi pare di capire, è la prima domanda. Fiscale non nel senso di guardiano del fisco, ma di guardiano della legalità fiscale. Esatto. E quello sarebbe benvenuto perché noi abbiamo un problema di legalità che si è pure aggravato da Tangentopoli in poi, nel senso che abbiamo perso posizioni nelle classifiche che misurano la corruzione, il tasso di legalità, per esempio quella di Transparency International, mi pare che abbiamo perso 30 posizioni dal 90 a oggi, e questo ha a che fare pure con la partita delle tasse. Noi abbiamo una norma costituzionale, la codica, ma da cui però derivano una serie di principi. Questi principi sono stati poi declinati da una legge del 2000, che è lo Statuto dei diritti del contribuente, che è una legge di respiro costituzionale, e se il Presidente della Repubblica, i Presidenti della Repubblica ogni tanto usassero del potere di arresto, di rinvio delle leggi o di blocco dell'emanazione dei decreti, per queste ragioni che hanno a che fare con le frodi fiscali che vengono dallo Stato e non, poi ci sono quelle che vengono da tutti noi, non sarebbe male. Quanto poi al pronostico, io francamente mi tiro fuori, è un po' come la caccia al nuovo comitato. No, ma non il pronostico personale, no, le considerazioni in ordine al fatto se è un tecnico, se è un politico. E la domanda che le faccio, professore, ma serve davvero un politico per capire, o un politico invece è come dire, catturato dal punto di vista regolatorio, e invece un tecnico nella sua ingenuità, se si nominasse uno staff di fiducia indipendente, potrebbe veramente fare da contraltare? Io non so, diciamo, la mia sensazione, per quanto riesco così a percepire gli umori profondi del paese, è che ci sia bisogno adesso di discontinuità. E di discontinuità non significa Molotov o che, no? Però un passaggio, dato che siamo anche probabilmente alla fine di questa avventura della Seconda Repubblica, serve qualcuno che sappia accompagnare questo passaggio. E allora un politico che viene dalla prima o dalla stessa seconda repubblica verrebbe percepito come un elemento di continuità anche rispetto così al sistema dei partiti, che in realtà è già fritto. È anche vero che se tu devi prendere qualcuno che rappresenti il paese, ma allora perché non Gigi Riva o Dino Zoff? Non è una battuta quella del professor Ainis. Se il criterio è quello, allora prendete una bandiera, ma a quel punto prendiamo un campione. E io non lo so, io penso che in realtà ci voglia un po' un politico, che questo è di rottura, e questo mi sembra che è un elemento dell'analisi di Ainis che è importante, perché o questi la portano a compimento alla fine della Seconda Repubblica, o finiamo come sempre in una terra di mezzo. Non puoi chiedere, scusami, al governo di scegliere un elemento di rottura, perché il governo invece vuole un garante di se stesso, vuole un non della nazione. Renzi l'ha detto che vuole un taglianastri. Professore, scusi, questo è legittimo, che il capo del governo, nonché segretario del partito di maggioranza relativa, indipendente dal nome, sia chiaro, sia l'attore che sceglie il suo controllore? Diciamo che sta succedendo. Mentre una volta il Presidente della Repubblica usciva dal concerto dei capi corrente della DC, e quindi poi alla fine veniva scelto qualcuno magari di seconda fila, Oggi, siccome c'è un Parlamento che premia con un premio di maggioranza, poi giudicato incostituzionale, ma questa è un'altra questione, un partito, ecco, allora quel partito c'ha diciamo la prima scelta. Io leggo la storia di questi 20 anni un po' in questa chiave: declino degli organi collegiali, il Parlamento è in una crisi profondissima, ma lo stesso Consiglio dei Ministri, dove una volta si intavolavano le trattative tra i partiti coalizzati, adesso è sovrastato dalla figura del leader. Ma non scherziamo, approvano testi senza leggerli e capirli, quindi. Sì, c'è una manina che scrive gli articoli, sai come passa di lì. E quindi però, diciamo, siccome questa è l'evoluzione verso la quale andiamo, ecco che si spiega anche perché, e alla fine il Presidente del Consiglio, un Parlamento maggioritario, una Costituzione che non è cambiata, finisce per scegliersi per la prima scelta sul Capo dello Stato. Motivo per il quale però bisogna cambiare. Ma nominato dal Capo del Governo è veramente inaccettabile. Ecco, cioè, io sono d'accordo, ma è uno dei paradossi di non sapere fare le riforme nel nostro Paese. E la mia idea è che bisogna avere gente come Michele Ainis al di fuori di un vincolo elettorale e come si fa. Le grandi scelte di costruzione che funzionano, allora, meglio, la costruzione della Quinta Repubblica hanno scritto in poche settimane poche persone che ci capivano, c'era un obiettivo chiaro loro affidato, Michele Ainis sarebbe in grado di farlo, in questo modo dopo tanti anni abbiamo quello che dici tu, Renzi si sceglie il suo taglianastri, poi alla fine non sarà così perché la politica è fatta di sgambetti. Allora noi ringraziamo anche il professor Michele Ainis che ha fatto parte di questa compagnia non all'altezza della sua dignità, perché noi siamo un po' più sgangherati, e gli diciamo che i nostri ascoltatori hanno una fantasia fervida, perché abbiamo scoperto di avere dei sostenitori dell'onorevole Casini, presidente della Repubblica, tra i nostri Fantastico. Ascoltatori, però bilanciati a sinistra dall'altra parte da sostenitori di Tito Boeri. Bisogna vedere se Boeri è Tito o è Stefano Boeri, presidente dell'Inps, presidente dell'Inps di questa settimana. Quindi noi abbiamo un pubblico trasversale e ci abbiamo anche dei fan, dei tecnici, perché dicono vogliamo qualcuno che prenda a cavolo un po' di a calci politici. Invece all'ascoltatore che non ha capito che ero ironico su Veltroni coerente, un'iscrizione gratis a un supplemento di corsi di ironia. Veltroni non è proprio il massimo della coerenza, deve essere in Africa e invece forse farà il presidente di questo paese che però è sulla buona strada per andare nell'altra sponda del Mediterraneo. Siamo in ritardo, ci sentiamo tra un minuto. Eccoci tornati qua in diretta 10:48, primi 54 secondi, ai conti la belva con i compari. Ciao Roberto. Mario. Renato. Oh, innanzitutto abbiamo appurato, l'ascoltatore per l'onorevole Casini, abbiamo fatto un check al telefono, era lui, sì, e quindi perdonate, ma questo abbiamo, no, stiamo scherzando, c'è davvero, ci sono dei fan dell'onorevole Casini. Continuate con le telefonate, perché noi le mandiamo in onda, anche se cambiamo argomento, questo sarà il fil rouge delle telefonate di tutta la trasmissione, quindi per ancora un'ora e un quarto, voi continuate a chiamare. E come una belva al Quirinale. Che dica dei no secchi, tonici, sì. Lavorai proprio, anche se costa 200 milioni, la Boschi, niente. La Boschi dice dei no, ma come belva non c'era Cossiga, e non era, no? E anche lì ci fu il discorso dell'impeachment, per non lo cui, vorranno no, mai per più, cui, no, appunto, mai appunto. Più, mai più, mai appunto. Più, mai più, mai più. Sentiamo Sergio da Savona. Sergio, come la pensi? Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, il mio nome per la presidenza è Giancarlo Caselli. Se lo vede lei i partiti che scelgono un magistrato intemperato e che li ha fatti ballare, e ballare prima essendo per così dire l'idolo negativo della destra per tanti anni, poi diventando invece, quando sulla TAV a Torino ha una posizione per me rispettabilissima e giusta, ma che però fa imbestialire metà della sinistra, se lo vede uno come Caselli che viene abbracciato dai partiti politici in Parlamento, Sergio? Però per quello serve, dice lei. Sì, proprio per quello. Proprio per quello. Se andessero a braccetto non serve più. Ha ragione Sergio, però l'aria che tira è un po' diversa, mi pare di capire. Sentiamo Enzo da Carbonia. Enzo. Buongiorno, sì. Grazie dell'opportunità. Secondo me, ricordiamoci il particolare della rielezione di Napolitano. Noi abbiamo necessità di avere un presidente che sia in un certo qual modo la continuità della linea di quest'uomo e della presidenza del Consiglio. Ho capito, ma Caluso è un po' anziano. Ma non per essere sudditi, perché questo paese ha bisogno, la necessità inderogabile di avere un sistema bipartitico per poter governare questo paese. Se non facciamo le riforme e quindi non ci sarà un presidente che è convinto, io tra questi presidenti convinti ne vedo tre. Però di questi tre preferisco, allora i tre sono Prodi che secondo me scivola verso il basso, Veltroni che come avete detto voi non scivola e basta, diciamo, il terzo che... secondo me è quello che potrebbe avere la capacità e la forza, lo dica. E si chiama Arturo Parisi. Un sardo tosto ex dell'Annunziatella, è stato un ottimo ministro. Forse perché sono stato. Non ce ne eravamo accorti, Enzo. Guardi, è stata un'intuizione. Grazie, Enzo. Una buona segnalazione. E sentiamo ancora Gennaro da Reggio Calabria. Gennaro. Sì, dottore Giannetto, buongiorno. Grazie, dottore Giannetto. Dottore Giannetto, la trasmissione, io la ringrazio per la prima e la seconda cosa. E allora, continuiamo, però, sia all'altezza adesso. Ci deve dare un nome all'altezza di questo incipit. Senta, io volevo dire che di dire basta per quanto riguarda i politici, che come Presidente della Repubblica ci vorrebbe qualcuno al di sopra di tutti i partiti politici, ci vorrebbe un tecnico, una persona capace di gestire a livello manageriale l'Italia. Marchionne al Quirinale? Qualcuno lo sta candidando qua, Marchionne? Io potrei fare anche un nome qualsiasi, Edoardo Lamberti Castronuovo, che è un non politico, cioè anche se è un assessore alla cultura qui alla provincia di Reggio Calabria, sindaco di un piccolo comune della provincia, è un editore di una televisione abbastanza ben vista. È un editore televisivo, è un medico, ha tre lauree. Chi ne ha di più ne metta. Perché andare sempre sui stessi nominativi? Edoardo Lamberto Castronuovo, lanciamo questa cosa per vedere. Sono i compari e i commari, sempre sti politici, sempre. Dico, questi magistrati si fanno sempre gli stessi nomi. Edoardo Lamberto Castronuovo, va bene, è una cosa fantastica. Grazie Gennaro. Allora, è partito il comitato di sostegno Edoardo Lamberto Castronuovo. Sono altre le cose, sono partite, mi pare, stamattina. Esattamente. Allora, ragazzi, non allontaniamoci dalla necessità di farvi arrabbiare riflettendo su quello che succede nel nostro paese. E adesso io cedo la parola a Mario Seminello, che vi deve illustrare questa cosa fantastica, cioè che gli italiani hanno scoperto in un intervento del Presidente del Consiglio a conclusione del semestre italiano, quindi nel rendiconto del semestre italiano al Parlamento Europeo, di essersi arricchiti e di essersi arricchiti perché hanno paura. Sì. E allora Mario, tu devi spiegare a chi è in ascolto, primo, che anche forse non lo sa ma è più ricco, e secondo, che ha paura e quindi lui si sta arricchendo. No, io se mi avessero profetizzato che io qualche anno fa che io avrei ascoltato delle frasi del genere, mi sarei messo a ridere, per cui alla fine la realtà supera sempre la fantasia. Parlando in maniera così seria, nei limiti del possibile visto l'argomento, il Presidente del Consiglio ha detto praticamente è aumentato il tasso di risparmio, no? C'è questa querelle che è molto interessante, adesso cerchiamo di semplificare. Tra l'altro c'è una divaricazione tra Renzi e il Ministero dell'Economia, perché chiama Renzi, la divaricazione, diciamo. Sì, vabbè, ma non si parlano, no? Vanno d'amore d'accordo, parlano di calcio, su altre cose non si parlano, sono il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. E dicono uno il contrario dell'altro. Assolutamente, e beh, alla fine sono coperti, no? C'è questa sorta di copertura come sui mercati. In sintesi, Renzi ha completamente ignorato il fatto che negli ultimi anni la ricchezza, quindi degli italiani, è stata sottoposta a delle botte terrificanti, soprattutto quella immobiliare. Il tasso di risparmio è un concetto di flusso, cioè è ciò, quella parte del reddito disponibile che io accantono. Il risparmio cos'è? È un consumo futuro, no? Visto che questo concetto tende a sfuggire. Una tassa futura in Italia sicuramente. Una tassa, forse un consumo. Quindi Renzi non riesce a tollerare il fatto che il tasso di risparmio degli italiani da un paio d'anni o forse più sta aumentando. La cosa lo fa letteralmente impazzire, perché lui proprio ha negli occhi il segno del dollaro, anzi dell'euro, diciamo, e dice: pensate che scempio tutto questo risparmio che potrebbe in realtà diventare consumi e fare ripartire questo meraviglioso paese. Ma a parte ciò, oltre a invitare Renzi a studiare un po' di più, cosa che non guasta mai a nessuno, diciamo, il concetto di stock e il concetto di flusso, che cosa ha detto il Ministero dell'Economia, che è un twittatore folle, diciamo, no? È uno dei maggiori account virali in Italia oramai, il MEF. Qual è la linea di lettura del Ministero dell'Economia? Dopo una crisi, quando cioè i risparmiatori hanno intaccato i risparmi per tenere il loro livello di vita, il loro tenore di vita, quando la crisi volge al termine, anche questo è un bel auspicio, il tasso di risparmio aumenta perché gli italiani ricostituiscono i livelli precedenti. Se voi fate mente locale, questo che sta dicendo il Ministero dell'Economia è l'antitesi di quello che sta dicendo Renzi. Perché Renzi berlusconianamente dice che gli italiani hanno paura, no? E ancora un po' vi dirà che la crisi è psicologica. Il Ministero dell'Economia dice esattamente un'altra cosa, per cui bisognerebbe mettersi d'accordo, oltre che, ribadisco, studiare, che non guasta mai, così si potrebbe evitare di andare in giro per il mondo a dire sciocchezze. Allora, per chi volesse numeri ancora per approfondire, non avesse capito le chiarissime parole di Mario, andate sul sito Radio 24, trasmissioni Conti della Belva, troverete indicate di preciso, e il richiamo al rinvio ai documenti ufficiali anche di Banca Italia, la stima di quanto sia abbattuto il valore della ricchezza degli italiani come stock, soprattutto per la perdita del valore degli immobiliari. Signor Presidente del Consiglio, non si gioca con le parole. Gli italiani lo sanno che purtroppo sono meno ricchi di prima e quindi abbiamo rispetto di quello che hanno perso. Eccoci qui, tornati in diretta ai Conti da Bello a 11, 6 primi, 59 secondi, compari, vi salutano tutti. Carlo Alberto. Mario. Renato. E Oscar, ovviamente. Altra cosa che mi è poco piaciuta, devo dirvi, dei giornali stamattina, perché il GR che ci ha preceduto rievocava le polemiche che ci sono state sulle primarie del PD in Liguria, il modo in cui Renzi ieri nella direzione del PD ci ha messo una pietra sopra, ha chiesto un applauso per chi l'ha vinta, l'assessore Paita, perfetto, ha detto noi siamo un grande partito che oltre a fare per unici le primarie abbiamo anche una commissione di garanzia che poi interviene e subito rimedia ai problemi, e quindi vi chiedo un applauso, applauso, cioè di tutto quello che è successo e che abbiamo letto sui giornali, voti comprati, Cofferati che diceva, non una parola. Allora, capisco, per me si chiama eccesso di disinvoltura, cioè è un paese in cui combiniamo una squalifica di un anno e mezzo a Carolina Costner che per amore copriva l'amante, il fidanzato per il doping, cose gravissime per atleti, ho capito, e quindi giusta, la giustizia dura, benissimo, poi ci sono le primarie truccate, adulterate, la direzione del partito che giustamente dice di essere il punto di riferimento, perché è vero, le primarie le fa, grande parola di democrazia eccetera, succede quel che succede e poi finisce tutto con pietra sopra e un applauso, ma che cosa che a me proprio non mi è piaciuta, devo dire la verità. Detto tutto questo, cambiamo per mezz'ora, adesso ci occupiamo, come facciamo ogni settimana, dell'Europa che balla, Carlo Alberto. Ah, balla il Sirtacchi, secondo me. Allora, balla il Sirtacchi. Sirtacchi, perché ricordiamolo, insomma, si vota il 25. Sì, nel frattempo, però fermi Oscar Giannino che lo ballava davvero. Ma io sarei pronto a riballarlo. Il problema è: i greci devono scegliere loro. Hanno posto un problema. Hanno posto, insomma, chi è in testa nei sondaggi, poi un grande problema. Lo abbiamo già spiegato, perché il ripudio in una stanza del 50% del valore del debito, un debito pubblico che oggi però in straordinaria percentuale non è certo nelle mani di privati che sono già stati rasati al 75% due anni fa, e nelle mani dei paesi dell'euroarea. Questo si aggiunge al fatto che tra pochi giorni arrivano le decisioni di acquisti non ortodossi, il cosiddetto QE, quantitative easing, della BCE. Vedremo se è vero o meno quello che scrive ieri Spiegel. Spiegel dice che Draghi ha spiegato alla Merkel che comunque gli acquisti saranno in carico come garanzia a ogni singola banca centrale del sistema europeo di banche centrali, non a carico del balance sheet, cioè del bilancio della BCE. Guardate, sembrano cose tecniche, ma è profondamente diverso. Significa che ognuno garantisce come al solito del suo di debito pubblico. Vuol dire che è la ricchezza dei cittadini italiani che garantisce il debito pubblico e non c'è solidarietà. E non c'è alcun meccanismo di solidarietà. Detto questo, è saltato il PEG, il cambio fisso del franco svizzero. Questi sono i giorni. Noi abbiamo deciso, oltre a chiedere a voi come la pensate, però di sentire due punti di vista molto diversi. E molto interessanti. E cominciamo con quello di Stefano Fassina. Stefano Fassina, del PD, è stato al governo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per coerenza, non pensandola come l'indirizzo prevalente, ha sbattuto la porta e se n'è andato. Ieri alla direzione del PD ha presentato un documento impegnando il governo italiano a non esercitare un'impropria influenza e ingerenza nelle elezioni greche. I greci devono scegliere senza che l'Europa dica loro: guardate che se fate una scelta fuori di Tsipras e Siriza, aiuto, arriva il lupo cattivo e vi morde le chiappe e le terga. Allora, grazie di essere con noi, a Stefano Fassina. Le chiederei innanzitutto di spiegarci perché, secondo lei, è bene aspettarsi che i greci facciano la scelta di dare i voti a Tsipras, perché non accontentarci delle nuove regole, diciamo, meno rigide per cui si è battuto Padoan, e gli va riconosciuto che le ha portate a casa, certo, certo, le nuove guideline della Commissione Europea, e perché invece bisogna fare un'altra scelta, cioè quella di una spallata, per così dire, o no? Buongiorno innanzitutto a lei e ai suoi collaboratori e agli ascoltatori. Solo una brevissima battuta su Genova, perché ieri, sulla Liguria, perché sì, ieri ero in direzione, sì, come lei non ho condiviso la disinvoltura e l'errore politico del segretario del partito nell'archiviazione come ordinaria amministrazione, bravo, di quando è avvenuto, cioè, in Liguria. Noi chiediamo di capire, la mia non è una polemica pregiudiziale, no, però capire almeno, ecco. Ma non possiamo considerare fisiologico che 13 seggi elettorali vengano annullati e che vi siano due seggi indagati dalla magistratura? Stiamo parlando di questioni molto serie, quindi credo che vi sia un problema politico in direzione, con la maggioranza bulgara che lo asseconda, il Presidente del Consiglio può archiviare quello che vuole, dopodiché credo che una parte rilevante dei nostri iscritti e dei nostri elettori considereranno il caso ancora aperto e rilevante. No, non solo degli iscritti e degli elettori, ma dei cittadini italiani, sì, esatto, un esercizio, esatto, di democrazia. Lei fa molto bene, onorevole, a sollevare questo tema, sa benissimo che magari la pensiamo un po' diversamente, ma dal mio punto di vista qui la redazione di Conti della Belva è assolutamente con lei su questo punto. Invece, venendo alle altre, sì, questioni, in Grecia si pone innanzitutto un punto di democrazia. Dobbiamo capire se nelle democrazie nazionali è ancora possibile scegliere, oppure bisogna archiviare in quel caso anche le elezioni, nel senso che se il programma del governo è per il 98% già definito e impossibile da modificare, allora davvero non si capisce perché bisogna andare a votare, perché bisogna eleggere un Presidente del Consiglio. Si chiama qualcun funzionario che applica il memorandum sottoscritto. Ma questo però l'abbiamo già fatto anche noi in Italia, sta dicendo assolutamente, che sì, assolutamente, e credo sia stato un errore sul piano della democrazia. Però, anche però lei ieri ha scritto una cosa molto interessante: oui je suis grec, no? Sì, sono greco, dicendo che la strada della Grecia è l'unica che può qualificare oggi una sinistra italiana, e ha detto una cosa secondo me molto interessante, ha detto che il conflitto tra creditori e debitori è un conflitto di classe. Onorevole, ce la deve spiegare questa cosa qua, scusi, la BCE, che è le banche centrali europee, che sono titolari di gran parte del credito nei confronti della Grecia, sono rappresentanti di uno conflitto di classe. Cosa intende dire? Intendo dire che si è dato assoluta priorità ai creditori, che soprattutto nella prima fase erano grandi banche che avevano fatto grandi profitti prestando ai cittadini greci, che poi importavano a debito prodotti tedeschi. Si è imposta una linea. E anche italiani, l'Italia è un grande esportatore in Grecia. Anche italiani, no, ora mi riferisco alla Germania, che è il paese che sta tenendo la linea più intransigente rispetto, sì, rispetto alla Grecia. È una linea che appunto ha portato a costi sociali, economici e sociali altissimi. E lo abbiamo visto, però lei ha detto una cosa importante, scusi, siccome abbiamo circa 24 miliardi di euro di credito in Italia, noi, nei confronti della Grecia, e sono dei cittadini, io non mi sento sinceramente in conflitto di classe, sono i miei soldi e vorrei vederli indietro, perché parla di conflitto di classe? No, la parte che riguarda che riguarda i cittadini italiani, i cittadini di altri paesi, ora è aumentata così tanto proprio perché si sono voluti tutelare i grandi creditori che non erano cittadini ma erano grandi banche, perché voi sapete che larga parte dei finanziamenti che sono andati alla Grecia non sono finiti a coprire i buchi di bilancio, sono stati utilizzati per pagare i debiti di banche greche nei confronti di banche di altri paesi europei, quindi il problema sta a monte. Poi è chiaro che è stato scaricato come al solito appunto facciamo? Annulliamo il debito e quindi lo paghiamo noi. Ma guardi il problema del debito voi leggete i media internazionali che per fortuna hanno una copertura un po' meno diciamo superficiale di quella italiana, ma il debito greco è un debito insostenibile, lo sa il fondo monetario, quindi non è il problema di che c'è qualcuno che lo vuole ristrutturare, rinegoziare e qualche altro no, il debito greco è insostenibile, quindi si tratta di fare un'operazione verità, oppure si continua a massacrare l'economia greca. Ho scoperto andando in Grecia un dato che non conoscevo, vi sono circa 80 miliardi di debiti privati in larga misura di piccole imprese nei confronti dello Stato, contributi previdenziali, per tasse non pagate, che stanno uccidendo tutto il tessuto produttivo greco, quindi siamo in una situazione in cui non è che la scelta è tra una ripresa full graduale con il ripagamento del debito e la rinegoziazione del debito, siamo di fronte a una spirale distruttiva. Ho la possibilità di riconoscere gli errori che sono stati fatti. È evidente che tutto questo deve avvenire in un quadro in cui l'impegno all'equilibrio di bilancio rimane, quindi non è che si ristruttura il debito e si continuano a fare lei lo sa però che da questo punto di vista io capisco che le elezioni bisogna vincerle, però il programma elettorale di Tsipras non dice quello che dice lei, non è vero, guardi, ho parlato a lungo con Varoufakis, che lei sicuramente conosce, un economista serio che ha insegnato alle università americane. È molto chiaro che loro non vogliono continuare a indebitarsi, cioè vogliono ristrutturare il debito e poi consapevoli del fatto anche che avrebbero comunque problemi, avranno problemi a andare sui mercati dopo e li avranno. Ma soprattutto se riprendono a fare quello che c'è scritto in quel programma sulle pensioni pubbliche, debito, le assunzioni pubbliche, la tredicesima da ripristinare, quello è a oggi con la struttura di entrate che hanno. Però mi interessava l'opinione di Stefano Fassina in quanto parlamentare italiano, perché lei mi ha detto facciamo come la Grecia, nel senso di sinistra, facciamo come la Grecia. Quindi qual è la traduzione italiana dal greco, caro Stefano? La traduzione italiana è che bisogna che la sinistra ritrovi un minimo di autonomia culturale che nell'ultimo trentennio l'ha perso. Non la butti sulla cultura perché cito Goebbels. Autonomia culturale intendo poi programmi economici. Negli ultimi trent'anni. Quindi cosa facciamo col debito? Col nostro debito lo ristrutturiamo o no? Per capire. Ma guardi, dal punto di vista economico, in uno scenario di deflazione nel quale siamo, temo sia molto complicato che noi riusciamo a ripagare il debito con avanzi primari di 5 punti di PIL. Non c'è dubbio, Stefano. Siamo su d'accordo su questo, siamo proprio completamente d'accordo. Quindi che facciamo? Si vende? Si vende l'oro? Si vendono le partecipazioni? Va presa molto seriamente la proposta che c'è nel programma di Syriza, ma che cominciano a considerare seriamente anche altri governi, di una conferenza europea del debito che trova un meccanismo per diciamo neutralizzare gli effetti di bilancio di una componente del debito. Allora, io adesso, oltre a ringraziare Simone Vassino, lo devo ringraziare anche perché è stato al gioco, è stato sintetico, contemporaneamente tentato di prendere molto sul serio le nostre provocazioni, che sono serissime. Il problema è che c'è tutto un pezzo di sinistra nel nostro paese, ma è europea la questione. Ci sono economisti come Lucrezia Reichlin, che non è proprio l'ultima arrivata. Io la volevo come Presidente della Repubblica. Che sostengono esattamente quello che ha detto Stefano Fassina adesso. E allora, questa è però una scelta radicale molto, per la sinistra. Molto, anche molto difficile. Che ha a che vedere con la lettura della storia presente e futura, con le identità culturali, su che voti si prendono, cosa si dice alla gente e così via. Io amo che delle idee si discuta. Io per esempio non sono d'accordo, però detto questo è una maniera di presentare una scelta politica. Allora ringraziamo Stefano Fassina, ci sentiamo tra poco e tra poco torniamo con un ospite anche del suo partito, esatto, che ha un'idea molto diversa, questo per capire con chi è a casa e noi non ci permettiamo di giudicare nessuno, a tra poco. Eccoci qua, tornati in diretta alle 11:21, primi 18 secondi in questo sabato mattina dai Conti La Belva e compari Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, sempre la multa non te la levano, sono andato a dirlo, no, ma non te la levano, no, ma è a Firenze che l'ho presa quando sono stato in moto, lì però se chiamiamo il presidente del consiglio ho idea che forse riusciamo a... le ha messe lui per raccogliere sono multe sante, è la classica multa per turisti, quella lì che ho preso per sante. Multe sante. Allora, ci abbiamo ancora da un po' di rendiconto dei nostri ascoltatori, sono attivissimi nel segnalare candidati e Presidente della Repubblica, quelli che vogliono. Stiamo ancora Michele da Pescara su questo. Michele, il tuo candidato ideale per l'elezione al Quirinale chi è? Buongiorno Giannino. Buongiorno. Per me dovrebbe essere Zagrebelsky. Oppure Barca. Fabrizio. Zagrebelsky non possiamo usare, non sapere che scriverlo. Quante Y non ha, scusi, Com'è? No, stavo scherzando, cioè. Un codice fiscale. In alternativa Mario Secchi. Mario Secchi. No, però aspetti un secondo. Aspetta un po'. Cioè, che cosa tiene insieme Zagrebelsky, quindi stiamo parlando tecnico, garante, però con un'identità di parte molto netta, Zagrebelsky per così dire. Poi Fabrizio Barca lo capisco, perché Fabrizio Barca è individuare nell'area politica del PD, ma qualcuno che capisco a quel punto il filo rosso, ma quello collega Zagrebelsky. Barca è un grande tifoso di Renzi, no? Giusto? Infatti sarebbe un perfetto contrappeso. Lo capisco. Quindi questo lo capisco, ma Mario Secchi a quel punto come sta insieme con i primi due? Beh, perché secondo me Zagrebelsky è un ottimo conservatore, anche se guarda a sinistra, è una persona seria. Mario Secchi è... ma lo capisco, c'è una logica che riguarda dei conservatori che guardano a sinistra. Allora mi ha dato la chiave. Grazie. Abbiamo degli ascoltatori che ci danno consigli preziosi, chissà se saranno ascoltati nelle aule parlamentari, ma continuiamo sul ragionamento. Ripeto, saltato il cambio tra franco ed euro, è arrivata la guidelines nuova sul patto di stabilità e sviluppo. Fammi dire che i greci stanno già votando col PIN del banco. Tanti di quei capitali 3 miliardi di euro prelevati sulle banche che non sa più dove trovare soldi. Qualcuno ce l'abbiamo al telefono, ce l'aveva detto, occhio che se tocchiamo la stabilità il cosiddetto bank run, cioè la fuga dalle banche, è dietro l'angolo. Questo qualcuno ce l'abbiamo qui al telefono, se ce l'abbiamo qui al telefono. Inspiegabilmente sempre per me, nella stessa area politica culturale di Stefano Fassina, che ci ha proposto una conferenza europea del debito dicendo facciamo come la Grecia. Sono certo che le conferenze risolvono tutti allora, i problemi. Abbiamo con noi Gian Paolo Galli nella vita di mestiere economista prestigiosissimo Stati Uniti qua eccetera eccetera, ha lavorato anche in Confindustria, quindi per le imprese. Poi dopodiché è una scelta culturale coerente, che dopodiché non fare battute. È parlamentare del PD, certo non la pensa come Fassina. Grazie di essere con noi a Gian Paolo Galli. Buongiorno a tutti. Allora cominciamo, perché non è una buona idea questa della conferenza europea dell'abbattimento del debito per tutti i paesi europeriferici? Ma diciamo la questione è molto complessa. Quello che io credo è che un paese, o meglio un partito politico di un paese, fa una notevole forzatura nel momento in cui chiede i voti agli elettori del suo paese promettendo di far pagare ai contribuenti il proprio debito ai contribuenti degli altri paesi. Questo è un problema, molto serio, cioè questo a me sembra il contrario della sovranità, semmai dovremmo essere noi a votare assieme ai greci che cosa fare del debito greco. Il tema invece della ristrutturazione del debito, di una conferenza sulla ristrutturazione, questo si pone su un piano completamente diverso, perché nel memorandum of understanding del Fondo Monetario c'era scritto che il Fondo Monetario dava i soldi alla Grecia. La Grecia ha avuto un aiuto da parte della cosiddetta troica che non ha mai avuto nessun altro paese al mondo che si ricordi nella storia dell'umanità. Questo l'ha riconosciuto anche il consulente economico di Tsipras, prestiti nell'ordine del 100% del PIL a tassi di interesse bassissimi. È come se avessero prestato 1500 miliardi agli italiani, giusto per far capire agli ascoltatori, ecco, in termini sì, proporzionali. Si tratta di un sacco di soldi senza i quali la Grecia sarebbe stata in una situazione assolutamente drammatica, cioè non aveva più accesso al mercato, quindi non potevano più pagare, non solo avrebbero dovuto ridurre come hanno fatto pensioni, stipendi, eccetera, ma non avrebbero potuto pagarli. Quindi sarebbe stata una situazione assolutamente drammatica, quindi noi assieme agli altri paesi europei al Fondo Monetario abbiamo aiutato la Grecia, rimane il fatto naturalmente che la Grecia si trova con un debito, malgrado questo si trova con un debito che è difficilmente sostenibile, anche se ha un onere per interessi più basso del nostro, perché i tassi di interesse che pagano sono bassissimi. Ricordavo il Fondo Monetario aveva accettato di dare un ulteriore tranche di prestiti l'ultima volta, anche in base all'impegno dei paesi europei a fare ulteriori sforzi nel senso della ristrutturazione del debito greco. Quindi un problema lì si pone, e credo che vada affrontato in maniera molto diversa da come sta facendo Siriza, cioè se loro dicono questo è un nostro diritto, io da contribuente ignaro, da creditore, quindi dico, non è uno scontro di classe, creditore dico beh discutiamo. Esatto, non è uno scontro di classe, caro onorevole, scusami, qui stiamo parlando di una concessione di un prestito fatto a scopi sicuramente di solidarietà, di sostegno e di ripresa, che viene violata dal mio debitore pochi mesi dopo per la quarta volta. Non certo. E il problema però mio adesso è che cosa succede invece dell'Italia, perché se la Grecia va in quella direzione, ecco, noi cosa facciamo? Cosa facciamo, io Gianpaolo? Io credo che diciamo il senso di tutta la politica economica, anche della politica tout court, compresa l'elezione del Presidente della Repubblica, se volete, ma tutto quello che facciamo deve essere ed è finalizzato a evitare scenari di tipo greco, ecco. Io credo che quegli scenari siano molto lontani per noi, però chi dice che il debito con la deflazione, con la crescita zero, addirittura negativa come è stata quest'anno, si pone un problema di sostenibilità del debito, non dice una cosa fantasiosa, però una cosa vera, a fronte della quale però bisogna mettere in atto tutte le politiche possibili. Quali, Gianpaolo? Perché tu stesso hai ammesso che quel disastro lì. Bravo, però hai ammesso che con un attivo di questo genere qua, con un saldo di questo genere qua, noi non possiamo andare avanti tutta la vita. E comunque non ci basta neanche per stare fermi, no? Un saldo di bilancio di questo genere qua. Quindi quali sono le iniziative straordinarie? Ristrutturarlo, no, il debito, e siamo d'accordo. Figurati, intanto, no? Dunque, ci sono delle cose che fa l'Europa e delle cose che dobbiamo fare noi. Le cose che fa l'Europa le sappiamo, diciamo, io forse più che sul piano Juncker, sul quale ho dei dubbi, trovo condivisi anche noi. Trovo abbastanza positiva la comunicazione che Katainen in questi giorni ha spiegato agli italiani riguardo diciamo a questa specie di golden rule che viene applicata in Europa, e cioè l'esclusione dal patto di stabilità e crescita di tutta una serie di investimenti. Questo mi pare quindi però questa è la parte che riguarda l'Europa, la nuova guideline. Per quello che riguarda l'Italia, diciamo, abbiamo uno stock, vogliamo fare, a me sembrano pronto, sì, le cose da fare mi sembrano chiarissime. Uno è il Jobs Act, la riforma, praticamente l'abolizione dell'articolo 18, mi sembra essere un passo avanti di formidabile importanza, poi, anche simbolica dal punto di vista dei mercati internazionali. Poi la riduzione del, secondo me, diciamo, la legge di stabilità ha portato qualche problemino, ma dei grossissimi vantaggi dal punto di per le imprese, l'abolizione dell'IRAP sul lavoro. Non c'è dubbio. Però il problema, dai Gianpaolo, cioè, a capirci, noi stiamo parlando di sostenibilità di un debito di 2200 miliardi. Stiamo parlando di un problema che riguarda gli stock. Allora, giustamente tu fai benissimo tutto quello che la legge di stabilità porta in più sui flussi per le imprese e così via. però questa roba qua non fa sparire la contraddizione dell'insostenibilità di avanzi primari per decenni e decenni rispetto a un potenziale di crescita nostro che è molto basso e che qua dentro condividiamo tutti che sarà molto basso per tempi, perché ci vuole molto tempo per alzarlo. Allora il problema è che l'alternativa è: o uno dice sugli stock io faccio maxi cessioni dal mattone eccetera eccetera e do una botta con quello, o altrimenti, cosa che è molto complicatissima, è complicatissima a fare, cioè non è che sto proponendo, o altrimenti temo che la strada sia quella contraria, che una bella patrimoniale che ci infilate dentro, una compensazione per il debito pubblico, diciamo, questa è il timore qua dentro, è qua. Tutte le cessioni possibili immaginabili, credo anche che dobbiamo ridurre le tasse, cambiare la composizione del bilancio, poi possiamo discutere, diciamo, certo, se questo lo si sta facendo o no, però okay, credo che quella sia la strada da seguire. Per quello che riguarda le ristrutturazioni, la ristrutturazione del debito, io vorrei dire questo: qui non è una situazione come quella della Grecia, che il nostro debito è detenuto all'estero, certo, il nostro debito è detenuto dalle vedove, degli orfani, è detenuto dalle persone fisiche. Quindi diciamo che non è una questione di classe, imprese, okay? Cioè, non è un conflitto di classe. No, diciamo che però invoglia la possibilità di fare una bella patrimonialone, esatto, questo è il punto. Esatto. Vabbè, che sia la patrimoniale o che sia la situazione del debito, questa cosa qui è esattamente l'opposto di una politica di sostegno della domanda. Questa è una cosa che rade al suolo i risparmiatori, i quali smetteranno assolutamente di spendere. Ci fa quindi piacere. È una cosa che desertifica la domanda interna e distrugge l'economia italiana. Viva il fatto che ci siano nel PD voci che parlano con questa chiarezza. Lo abbiamo detto, non polemizziamo, non stiamo qui a dire ma come fanno Fassina? No. Però noi sentiamo tutti, esistono dei problemi su questi interrogativi, però allora la conseguenza per dire la nuova Fassina è questa che ha detto Giampaolo Galli, perché altrimenti finisce obbligatoriamente a patrimonialona, guardate, cioè è così, perché oramai le maxi cessioni di Stato che abbattano lo stock del debito pubblico, ma è appunto, no, è la tassa di successione, la tassa sui morti, questa è quella che arriva. Allora sappiamo, bisogna prendere la strada Galli, per intenderci, e batterla con tutta la forza che c'è. Grazie Giampaolo Galli, pausa, ci sentiamo tra poco. Eccoci tornati qua in diretta alle 11.37, la compagnia dei conti della Belva. Carlo Alberto, Mario, Renato e Oscar. Allora, rendiconto finale di alcune delle vostre illustrazioni di candidatura per il Quirinale. C'è chi candida Zingales, benissimo, lo leggessero, ma figuratevi, se pensate che io non sia d'accordo, vi sbagliate. Chi ha proposto Pietro Ichino, chi il professor Mario Baldassarri, chi Antonio Martino, Martino. Non magari. Credo che abbia molte chance nel Parlamento attuale, è troppo di destra, troppo offertista, troppo monetarista. Se insulta meno magari. Ecco, poi devo dire che questo problema è che sono a Mario Seminero, nella comunicazione pubblica Mario Martino non è diventato molto bravo, devo dire la verità. Dopodiché c'è chi ha proposto una casalinga. Qui entro io però, sai che io sono di Voghera, quindi sono assolutamente d'accordo. Casali, Presidente della Repubblica delle casalinghe di Voghera. Le casalinghe di Voghera. Era al potere. Allora, e poi c'è anche Oscar, c'è anche chi ha detto un non italiano. Un non italiano. Per cui ha risolto il problema, diciamo, di tutte le caratteristiche. Forse il vincolo estero lo includiamo. Sì, esatto. Vincolo straniero. Cioè, non credo che sia costituzionalmente fattibile, ma questo. Però dice George Clooney. Tutto però siamo sommato in un tempo di riforme, hai visto mai che qualcosa esce. Allora, detto tutto questo, poi ci sono alcuni che hanno osservato anche su se Fassina sia o meno il nuovo che avanza, eccetera, eccetera, rispetto a Galli. Detto tutto questo, guardate che è singolare un paese nel quale all'interno del PD vi sia praticamente rappresentata la destra e la sinistra, è l'intero asse politico, è diventato il ADC. È la vecchia ADC, ma ho capito, però scusate se ve lo dico, riflettete voi che avete votato la destra o non andate più a votare la destra, perché è l'assenza della destra dalla politica per interessi personali del suo leader da anni a rendere possibile un quadro così. In un Parlamento tripartito, come ha detto Carlo Alberto, se il Presidente del Consiglio PDino sceglie il Capo dello Stato, cioè un'anomalia visto che è controllore, si deve al fatto che la destra non è in campo, non c'è, pensa solo ai cazzi di Berlusconi. Guarda, francamente, di avere tanta destra in giro, no? Ma poi non esiste la destra in Italia, una destra liberale. Esiste una destra liberale. Non volevo scatenare qua, una destra pecoreccia, una destra pecoreccia sociale statalista è quello che c'è in Italia. La destra liberale in Italia non esiste. Bene, ora che vi abbiamo spiegato come la pensiamo, la destra sociale c'è in Italia. Le termiti ci sono in Italia. Parliamo di una cosa seria, un passo avanti verso l'Italia che vorremmo, più tecnologica, più produttiva, digitale. Allora, siccome a chi parla è nato un figlio il 5 gennaio e ha sbattuto la testa col fatto che l'anagrafe a Milano viene ancora compilata manualmente su libri master di 165, formato a zero, ecco, con il calligrafico manuale. Poi, secondo, che su copia di uno stesso libro master delle stesse proporzioni viene messo, acquisito a computer del dato, e quella pagina è stampata da una stampante ad aghi di metri 1,5, non più prodotta dal 1987, giuro. Questo è lo stato. Spenderanno 2000 euro di manutenzione all'anno. Questo è lo stato dell'anagrafe a Milano. E a oggi, passati insomma un bel po' di giorni, a oggi, al Comune di Milano, dove la prassi dovrebbe essere formazione automatica del codice fiscale all'atto di nascita comunicato al Comune, automatico trasferimento attraverso amministrazioni a INPS, la parte regionale, quindi ASL competente per la tessera sanitaria, e l'Agenzia delle Entrate Nazionali. Invece la risposta è: noi non possiamo garantirle che questo avvenga davvero. Si metta in coda di fronte all'Agenzia delle Entrate, le danno fisicamente il codice fiscale, lo porti all'azienda sanitaria, dove le daranno a quel punto la tessera sanitaria, senza la quale lei non può indicare un pediatra per suo figlio. Questo è lo stato degli atti a Milano. Certo. Milano. Allora la domanda è: ci hanno promesso, Carlo Alberto, io ci credo, voglio crederci, che nel 2015 c'è l'anagrafe digitale unitaria, nel 2016, ecco. Allora, per favore, Carlo Alberto, e grazie di essere qui con noi, la responsabile, la direttrice dell'Agenzia Digitale, Alessandra Poggiani, datemi un motivo per credere che davvero non funziona quello che purtroppo sta funzionando, come vi ho descritto io, a Milano. Grazie Alessandra Poggiani. Grazie Alessandra, ci sei? Sì, motivo è proprio quello che ha descritto il professor Giannino. Cioè, se no, non me lo fa stato... professore. Professore Oscar, è così bello il nome. È proprio quello che ha detto lui. Cioè, se questa è la situazione, diciamo, no, non può non esserci. Quindi è la forza della volontà. Non essere kantiana anche tu come me. Dici quello che ci sarà, non quello che dovrà esserci. Facci capire quali sono i piani della tua agenzia. Lo so che stai faticando, lo sa. Però spiegaci come mai dovremmo credere. Ieri ci hai fatto un bel tweet. Dovete crederci. Ma noi ci crediamo. Però, come dire, faccela vedere questa cosa. Faccela toccare sta anagrafe, dai. Stiamo lavorando un sacco. Il decreto è uscito alla fine di novembre ed è stato un decreto, un DPCM complicatissimo, perché il coordinatore del progetto è il Ministero degli Interni, ma il progetto ha tantissimi attori. 8.050 comuni. 8.000 comuni, 8.000 anagrafi. Se la tecnologia è la penna Pelican intinta nell'inchiostro sul foglio a zero. Peraltro vi ricordo che in Italia c'è una differenza giuridica fra l'anagrafe e lo stato civile, e dobbiamo mettere insieme tutte e due le cose, perché non possiamo avere un'anagrafe unica centralizzata senza che ci siano anche i dati dello stato civile. Quindi bisogna unificare anche quello insieme. Poi c'è la SOGEI, che è la società in-house del MEF che sviluppa software e sviluppa i sistemi, che ha in carico da parte del Ministero degli Interni di sviluppare materialmente sia il sistema e sia realizzare il data center a supporto del sistema. E poi appunto c'è l'ANCI, che rappresenta tutti i comuni, e poi c'è la funzione pubblica che fa parte del progetto, e noi che tentiamo di coordinare. Ti fanno lavorare tutti. Quindi facci capire cosa ci dobbiamo aspettare da qui all'anno prossimo, il lavoro che state disegnando. Da qui all'anno prossimo noi abbiamo selezionato insieme all'ANCI quasi 40 comuni, da comuni molto grandi come Roma e Venezia, comuni piccolissimi come Sempronano in provincia di Grosseto, che faranno da pilota e che migreranno le loro basi dati nel sistema che per giugno Sogei avrà completato e realizzato. Questa migrazione ci aiuterà a capire quali sono le difficoltà dei comuni nella migrazione e a sostenerli, perché poi le 8050 basi dati e sistemi informativi che esistono nei comuni per l'anagrafe e per lo stato civile sono diversi, molto diversi. Diversi e anche realizzati in tempi diversi, quindi alcuni di questi possono essere resi interoperabili in maniera relativamente semplice, alcuni di essi assolutamente no. Quindi vanno fisicamente migrati, vanno formati gli operatori che in questo momento lavorano nelle anagrafi di questi paesi a utilizzare altri sistemi e altre interfacce. Ma me lo dici nel 2015 che vanno migrati, lo sapevamo da ventina d'anni però, Alessandra, che queste cose andavano migrate, non è mai stato fatto nulla? Capisco. Quindi ma non esiste neanche un'anagrafe, cioè un database? Esiste, è stato realizzato credo quasi 10 anni fa, comunque parecchio tempo fa, dall'ANCITEL che lavorava per l'ANCI, un sistema, un indice nazione che si chiama INASAIA, che però diciamo funziona in maniera abbastanza non coerente come funziona la rete, nel senso che l'INASAIA funzionava che in maniera non sincronizzata e quindi non in tempo reale i comuni dovessero comunicare i dati in questa banca dati. Cosa è successo nel tempo? Che i comuni, alcuni l'hanno fatto, altri l'hanno fatto con tempi non... diciamo ai cittadini italiani che i loro figli che nascono oggi in realtà sono affidati alla fragilità di un pezzo di carta e non sappiamo neanche se i dati sono stati poi riversati su un database comune. Questo è quello che ci stai dicendo dell'attuale. E ci stai dicendo attualmente l'INASAIA non è una banca dati affidabile, perché non tutti i comuni riversano, non tutti riversano nei tempi giusti e comunque non sono mai allineati perché non sono in tempo reale. Quindi E ci dici che dobbiamo avere fede che tutto questo, che non è avvenuto in 20 anni, invece avverrà in 20 mesi. E questo che stai dicendo, almeno nei 40 comuni pilota. Nel frattempo facciamo nascere i figli a Grosseto o a Venezia, perché se no, se nascono a Milano ancora no, allora, con la sperimentazione sui comuni pilota non è perché diciamo è semplicemente per capire sul campo cosa succede, quindi per poi essere preparati da gennaio, quando tutti gli altri comuni devono iniziare a migrare, ad avere le squadre pronte per poterle aiutare. Quindi ma secondo te è un problema di tecnologie o di persone? E quindi anche di resistenze, di persone. Alessandra, diciamocelo con franchezza, non è un problema tecnologico, esatto. È un problema, ce ne vuoi parlare di questa resistenza? E molto di persone e anche di sistema giuridico. Adesso non ne parlo perché non ne sono un'esperta, però vi assicuro questi mesi, essendomici confrontata, noi abbiamo degli impianti normativi sull'anagrafe e sullo stato civile che sono dell'Ottocento e che quindi diciamo mappano processi anche all'interno dei comuni e all'interno dei comuni nel rapporto col Ministero degli Interni, che non sono processi facilmente trasferibili diciamo in un'era digitale. Soprattutto non dovrebbero essere trasferiti in un'era digitale, questa è la mia modestissima. Quindi dovrebbero essere cambiati, ecco. Ma è molto più facile realizzare il sistema anagrafico dal punto di vista tecnologico e anche, se volete, della formazione degli operatori, piuttosto che cambiare le norme in questo paese. È molto lungo. Ma il lavoro che ha fatto Francesco Caio prima di te, che aveva scelto queste tre priorità, no? In cui una era proprio questa dell'identità digitale, a che punto è? Siamo all'anagrafe, l'identità è un'altra cosa, quindi non le confondiamo. No, infatti è un'altra cosa, però diciamo almeno quelle me le fate interoperabili, dico bene, almeno quelle due cose lì. Assolutamente sì, ed ambe due saranno diciamo le infrastrutture chiave per quello che abbiamo chiamato Italia Login, cioè il nuovo sistema operativo del paese, nel senso che dobbiamo anche realizzare questi grandi progetti. È molto complicato perché in Italia c'è una governance complicata dove le competenze sono molto frammentate e dove i livelli di governo fra comuni, regioni, stato centrale sono molto parcellizzati. Alessandra, direttrice, allora, chi è che fa da ostacolo? Quando dicevi che è un problema culturale, umano, di persone, mi posso avere, non dico i nomi e cognomi, almeno i ruoli, che di quelli che remano contro, come si dice? sbilancia. Io non penso che sia adesso, perché questa però è una retorica, no, non una, diciamo, è un modo di intendere le cose un po' semplice. Secondo me non c'è nessuno che rema contro, non troverai nessuno che ti dirà io non voglio un'anagrafe unica. Ma? Però dall'operatore dell'anagrafe che deve imparare un nuovo mestiere e anche avere abitudini diverse davanti al suo schermo, al direttore dei servizi chirografi, diciamo, non remano contro, ma non remano, questa braccia in conserte non stanno remando. Allora, io dico solo, Alessandra Poggiani, per quello che è possibile, siamo qui anche per dare una mano, per tentare di scuotere, perché io credo che siate in pochi ad avere le idee chiare di fronte a un oceano di persone che per ragioni legittime, comprensibili, hanno interessi avversi a cambiare il sistema nervoso, neurale della PA. La mia opinione è che loro sanno che il digitale bypassa la vecchia struttura ossea analogica e preanalogica della PA. Quindi la mia opinione è che bisogna darvi una mano, sperando, perché io su questi tempi non arrivo a crederci. Grazie quindi. Grazie Alessandra. Alessandra Poggiani, torniamo tra un minuto a Strade. Ed eccoci qua alla chiusura, dopo avervi fatto arrabbiare, ma anche aver fatto proporre un po' di buoni nomi per la Presidenza della Repubblica in questo sabato mattina. Come sapete era il nostro appuntamento rituale, oramai, rituale. Del resto il Papa oramai vedo che fa i segni dei re per le corna, anche benissimo, e quindi diventa un rito anche questo. Faremo noi la chiesa alternativa, visto che il Papa oramai si mette, devo aspettarmi anche qualche mossa di rap a San Pietro e qualche pugno, quando volano pugni a San Pietro non ditevi però che poi è in contraddizione, quindi la gente che si prenda a pugni di fronte al Papa, questa è la mia idea. Detto questo, sto scherzando, però noi finiamo la trasmissione ogni volta con un non si può fare, e questo non si può fare di questa settimana, che affido a Renato Cifredi, è di una grande importanza, perché abbiamo visto emergere nelle proposte fiscali del governo in questa settimana delle cose un po' singolari, di cui si parla molto, molto, molto poco. Renato. Ma allora, la prima domanda che volevo fare è: com'è fatta l'industria italiana? Cioè, da sempre ci diciamo, l'industria italiana è fatta di piccole e medie imprese, molte medie che stanno avendo comunque, anche in una situazione molto, molto difficile di mercato, dei grandi successi. E quello che noi vediamo nelle ultime cose della legge di stabilità è che vengono favoriti i grandissimi gruppi. Quindi abbiamo visto, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, tutta la parte di compliance fiscale per quelli che hanno più di 10 miliardi di fatturato, che non sono esattamente le piccole imprese, non proprio, e dove non credo che abbiano grossissimi problemi, perché credo che il direttore fiscale dell'ENI sia in grado di alzare il telefono e parlare con l'ufficio. Però il problema è che sono proprio l'ENI nella Finmeccanica ad avere un po' di problemi invece di penale tributario per indagini in corso, quindi sì, questa roba serve ad evitarla, però è fatta per pochi amici, perché oltre amici, a questo alle banche di privati sopra 10 miliardi in Italia ce ne sono 4, 1, 2, 3, 4, quindi... Ma sai, se quelli che vanno sotto le forche caudine della magistratura sono quelli che hai nominato tu e sono i tuoi amici, esatto, il problema nasce. Infatti, così glielo risolvi. Però questo intanto ve lo abbiamo preannunciato, riguarda i sistemi di cosiddetta compliance fiscale, cioè l'adesione a quanto prescrive l'ordinamento, fatto con facoltà di interpello preventivo, in maniera tale che vi evitate poi gli accertamenti. Noi comuni continueremo ad averceli. I grandi e gli amici del governo, no, partecipare dello Stato invece no. Ok, a questo si aggiunge questa settimana un'altra novità. Questa settimana, lanciata come cosa per attirare gli investimenti stranieri in Italia, è quello che succede peraltro in tutti i paesi, perché non dimentichiamoci che Juncker l'hanno massacrato perché si metteva d'accordo con le grandi aziende che andavano a mettersi in Lussemburgo, che è quello di dire... Mettersi d'accordo significa che gli offriva aliquote bassissime per molti anni, no, non è che si metteva d'accordo con le stecche. Si metteva d'accordo sulle tasse, esatto. Ecco, sono stato un po' breve, diciamo, si metteva d'accordo sulle tasse da pagare. Anche il governo italiano sta proponendo una cosa di questo genere, vale a dire, investi più di 500 milioni con almeno 100 milioni all'anno per 5 anni, eccetera, eccetera, e noi ti garantiamo la stabilità del fisco. Allora, garantire la stabilità del fisco in Italia è una specie di cosa, cioè non so, Non so cosa ci possa essere di meglio. Il vulnus è lì, è nel fare un favore personale quando dovrebbe essere un diritto universale. Capisci che stiamo erodendo le basi fondamentali della Repubblica, stiamo usando la legge ad aziendam, anzi aziendas. Volevo informarvi intanto che basta citare il Papa perché arriva nel nostro ascoltatore. Evitate di dire cretinate sul Papa, evitasse il Papa di dirle anche Scusate, rivendichiamo il nostro diritto. Guarda, di essere irrispettoso. Guarda, c'è qualcosa che mi sta più a cuore qua. Chiusa parentesi, la legge, la legge per la quale se qualcuno ti offende tu gli dai un pugno, la legge giustamente ti persegue perché non c'è proporzione tra la tua reazione e l'offesa. Assolutamente. Chiusa parentesi, torniamo al fisco. Sul discorso del fisco, allora io quello che dico è: un'azienda come la mia, un'azienda che ha investito negli ultimi anni per fare un tosaerba nuovo, io non li faccio e parlo di qualcosa che facciamo nel nostro settore, perché deve essere così stupida da stare qua a questo punto? Allora andiamo in Svizzera, ci mettiamo d'accordo sul fisco dei prossimi 5 anni, visto che là non mi chiedono investimenti per 500 milioni e vorrà dire che i nostri dipendenti ci seguono in Svizzera. Diciamola diversamente, diciamo che agli amici degli amici io garantisco l'invarianza fiscale, paradossalmente quindi agli altri garantisco il contrario, cioè garantisco che li fregherò appena possibile, perché se io garantisco la belva ha fame, quindi Però ragazzi, così non è che noi attraiamo gli investimenti, no, così li respingiamo, perché non si può dire al 99.9 periodico delle imprese italiane a beccarsi l'invarianza fiscale sono solo quelli, e non siete voi che vengono qua con cui ci mettiamo, e pochissimi saranno, perché stiamo parlando di 500 milioni di investimenti, non è un investimento che 10 aziende in Italia Allora, e tutti gli altri invece si beccano i decreti e le tasse retroattive, tutti gli altri, no, introduciamo due repubbliche economiche, quella dei garantiti che, come dire, sono esenti, sono ma abbiamo già due repubbliche qua, garantiti e non garantiti, ce l'abbiamo già. Dobbiamo urlare, lo portiamo anche nelle imprese. Non è accettabile. Basta! Non è accettabile garantire un trattamento fiscale stavolta discriminatorio. Oscar, lo dico io questa volta. Basta! No, ecco, non lo dici solo tu, c'è un bell'ascoltatore che ci ha mandato un bel SMS che devo leggere io, che Oscar non può leggere, no? E dice: "Povero figlio Brenno Aiace, che rompicoglioni di padre che hai". E soprattutto che rompicoglioni sarà lui quando cresce. Allora, appuntamento a tutti con sabato, continuate con Radio 24.